Questo è lo scaldino. No, liscio, capito? Non era tutto solo umile questo. Era liscio, ma era uno scaldino uguale. Da casa il travicolo, all'arcolaio c'era un gancio a vite, capito? Fermato sopra, su, e si attaccava lo scaldino. Prima di andare a letto si metteva, si teneva un po' per scaldarsi i piedi, capito come? Si metteva nel letto. Sono anche a casa, ora non so se c'è sempre. Che c'era anche voi. Questo qui ci si scaldava anche i piedi. Il mio babbo fece una cassettina così, che ci si infilava dentro. Questa cassettina ce l'ho a casa. Questa cassettina si metteva i piedi sopra per non bruciarsi e ci si scaldava i piedi. Poi la sera si metteva nel letto. C'era lo scaldaletto, ce l'ho ancora. Uno era fatto a barca, che scivolava bene. Un altro era tondo, quello era un po' peggio. Allora si metteva nel letto e ci si scaldava. Mentre si aspettava un po', dopo un po' si levava e si entrava nel letto caldo. Se c'era stato un piccolo pezzettino che non era bruciato, c'era il puzzo di fumo dentro. Che ci mettevate dentro? La brace. La brace bella calda, non nera, si scaldava alla stufa a legna o al caminetto, io c'ho questo e quello, e si metteva lì dentro e si metteva dentro il tuo scaldaletto e si trova il letto bello caldo. E durante il giorno che si stava in casa e faceva la casalinga, ci mette a piedi il babbo, fece due cassettine, una a me, una alla mia sorella, tutta a casa le bambine mi hanno detto no, non le butta via. Tutta righine così, io ce l'ho già detto, sì. E si metteva sopra i piedi così, ci si scaldava, c'avevo geloni nei piedi, i geloni che prudono. La televisione non c'era. E allora quando avevi cenato andava a letto. Nel mentre si cenava si metteva a vedere lì. Poi quando andava a letto, il bellino calduccio, infilavi dentro, levavi quello e ci entravi dentro al caldo. E la mia povera nonna se lo metteva qui e ci si scaldava le mani. Ma senti un tempo. Ecco, quindi ricordo. Questa cosa ti ha fatto ripensare un pochino a casa? Sì, ai tempi che, diciamo negli anni 45, dopo la guerra, anche in tempo di guerra, insomma, quei tempi là, insomma, un po' tristi. Scriverlo con una parola? Sì, guardalo. È antica questa con i bambini. È una cosa antica, guardate che c'è dentro. Oh mamma. Okay. È il carbone. È il carbone. Per scaldare il letto. Per scaldare il letto. Ce l'ha messo il carduccio. Hai visto? Oh mamma, ce l'ha messo il carduccio. E poi c'era il travicolo lungo e uno corto. Sì, c'era anche io. Madonna, uno lungo. Oh. E la mia mamma metteva il lungo perché c'erano due. Poi c'era la mia socia che si metteva il vicino quando rimase sola. Poi c'era la bimba, quella più grande, ho letto un nonno.